con Mario Sesti per fare un bilancio dell'annata cinematografica 2019 e anche sapere quali sono i suoi film, i suoi cinque preferiti tra quelli usciti in sala. Mario, ben trovato ed auguri. Auguri a voi, come vanno le parti? No? Qui belle giornate. Belle giornate, col sole e frizzanti, anche un po' di freddo Sì, finalmente, è credo. freddino. Allora, il mio bilancio, devo dirti questo, Federico, dato che questo ormai è diventato un appuntamento ormai pluriennale, ho l'impressione che gli altri anni abbia faticato di meno a trovare, o meglio, i titoli che adesso si danno sono grandissimi, mi sono piaciuti molto. L'altro anno avevo più l'imbarazzo della scelta, però questo non mi sembra un criterio fondamentale, nel senso che non credo che il mio gusto non sia così decisivo neanche per me. Quindi, quello che però credo di poter dire è che quest'anno segna secondo me una giro di boa nella grande così gigantomachia tra cinema in sala e cinema non in sala, diciamo, no? Che ormai è una battaglia, cioè, da quando sono esistiti i video on demand, ancora prima naturalmente i computer, ancora prima la televisione, eccetera, eccetera. Cioè, quest'anno il fenomeno vero mi sembra uno dei peggiori film di Scorsese, e qui getto subito un sasso nello stagno, perché mi sembra probabile che invece possa essere tra quelli che finiscano nella cinquina decisiva, però appunto Irishman forse è uno dei film più visti di Scorsese, per il semplice fatto che sta su una piattaforma che sta in centinaia di paesi in tutto il mondo. Questa è la realtà adesso, no? Se uno vuole che sui film possono essere visti in tutto il mondo, c'è la possibilità materiale di farlo. Poi però naturalmente l'angolo, no, attraverso cui trovare temi, linguaggi e naturalmente anche forme di bellezza che possono essere validi, che ne posso dire, tra il Giappone e l'Irlanda, no, è veramente molto complicato, e questo diventa ancora di più una sfida per il cinema italiano. Questo mi sembra che sia un po' il senso della. E c'è un bellissimo articolo di New York che parla proprio di questo, per l'appunto, no? È sempre più difficile vedere e seguire e coprire film di qualità in sala, però è sempre più facile invece intercettarli online, perché le piattaforme dei video on demand stanno diventando dei fornitori di contenuti, ce ne sono di mediocri, ma ce ne sono di bellissimi e probabilmente in misura sicuramente maggiore di quelli che il cinema tradizionale, quello che conosciamo noi, la nostra città, è in grado di dare. Secondo me questo è un anno abbastanza decisivo da questo punto di vista. Sì. Come Se sei d'accordo vengo ai miei cinque, no, come no, segnalazioni. Allora, argomentandoli. certamente. Allora, uno dei film più belli dell'anno, e sono abbastanza convinto di, a differenza della mia valutazione di Scorsese, che non deve essere solo, è sicuramente Parasite. Per dire che grandissimo film è, c'è cioè una scena di pioggia, quanto dura quella scena? 5, 7, 10 minuti, no? Ricorda com'era il cinema una volta, no? Il cinema di Fellini, no? Se uno pensa a Roma, quella scena per esempio della La Spettacolo, che sembra durare un film intero, è un po' come con la musica, no? Quando c'erano, non so, le suite di Pink Floyd o di Miles Davis che duravano, no? Brani che duravano 20, 25, 18 minuti, no? Oggi invece, come sappiamo, c'è un pezzo di musica di qualsiasi tipo, dura più di 2 minuti e mezzo, viene avvertito come se fosse una forma di sperimentazione. Ecco, Parasite, c'è cioè questo passo di cinema bello e importante come era una volta il cinema. Poi, secondo me, la cosa bella, soprattutto per noi italiani, è anche un po' di rammarico, che potrebbe essere un film di Monicelli girato da Park Chan-wook, no? Cioè, un gruppo di disperati, no? Dei soliti ignoti, no? Che si trova in quel contesto con un cinema, però ha un arco di una palette di risorse, per l'appunto, di montaggio, di recitazione, di scrittura, di camera work, effetti speciali, che ormai. Insomma, è anche, secondo me, questo film ci dà anche l'idea di un autore il quale ormai, se vuoi essere un grande autore, devi sapere queste cose insieme. Non basta saper solo scrivere, saper dirigere gli autori, insomma, bisogna anche saper fare con gli effetti digitali. Bisogna, insomma, è anche, secondo me, un modo di far capire che tipo di la lingua del cinema di oggi, no? E lo dico se il fatto di un film che ha vinto tante persone nel mondo ed è stato preso un successo praticamente ovunque. Gli altri film sono Ritratto della giovane in fiamme, che è un film film che avrebbe potuto essere una banalità sconcertante, l'ennesima apologia dell'amore gay, e invece è un film molto misterioso, innanzitutto perché si rivela il suo tema molto avanti, e poi perché è un film fondamentalmente sul desiderio, sul godimento e soprattutto sul modo in cui sono legati alla vista. Quindi, per certi versi, è un film che parla del cinema, no? È bellissimo quella cosa all'inizio per cui attraverso questo espediente della sceneggiatura c'è qualcuno che deve fare un ritratto di una persona senza averla di fronte, semplicemente con la memoria, no? Semplicemente con la fantasia. Questo mi sembra qualcosa che ha a che vedere con la capacità che ha la creatività del cinema. Poi, vabbè, due attrici spettacolari e in generale, diciamo, l'idea che il piacere della visione è un godimento, ecco. E anche questo mi sembra che riguarda tutti noi che da anni siamo dipendenti, no? Addicted di questa forma di racconto, di commercio, di narrazione e anche di, no? Una specie di condanna che abbiamo noi che non possiamo non continuare a parlare e a vedere film. Mi sembra che quel film, nonostante parli per l'appunto di un amore non eterosessuale, parli anche di questa cosa qui. Poi c'è Storia di un matrimonio, che è un film bello e basta. Bello nel senso come erano anche qui belli una volta i film, quindi c'è un copione notevolissimo, due attori in uno stato di diatasi sono incredibili. Poi anche qui, no, Storia di matrimonio, quando dico Storia, ma non c'è già un altro film, mi dico l'uomo fa l'ultimo Scena di un matrimonio. Di Bergman, no, Storia di matrimonio, e la cosa bella anche qui è far vedere come due persone che non possono più vivere insieme, non possono neanche vivere completamente l'una esterna all'altra, questo è bellissimo, nonostante ci sia un conflitto, no? Una delle scene più belle è quando, nel momento di massimo conflitto, quando hanno ingaggiato due, quando finisce un amore, no? Allora si diventa privi di scrupoli per tutelare giustamente interessi personali, la propria fragilità, la propria vulnerabilità, il proprio possesso, le relazioni dei figli. Ma nel momento di massimo scontro in cui loro due si guardano, mentre gli avvocati litigano, e sono in un imbarazzo, nonostante vogliono tutte e due il più possibile liberarsi del legame, sono in imbarazzo per il fatto di essere in una forma di conflitto dopo aver avuto un'intimità così profonda. Chiunque abbia vissuto una cosa del genere sa quanto quella cosa lì sia la verità di una situazione del genere. Poi ci sono i fratelli Sisters di Odiare, che è uno dei miei registi preferiti, è un bravo regista europeo in circolazione da parecchio tempo. Che devo dire, è un film così ricco nella storia, così ben scritto nei dialoghi, così ben interpretato, non so, sembra anche lì, sembra un po' appunto un film dei fratelli Coen, però con delle forme di tenerezza, delle forme anche di capacità di mettere a un certo punto in gioco lo stile del film, perché è più importante a quei momenti di verità che ci sono dei personaggi che invece è tipico del cinema europeo, un grandissimo film. Per infine ci sono due film che io metto insieme in realtà, che sono i due film italiani più belli dell'anno. Ho fatto molta fatica quest'anno a trovare i film italiani da segnalare. Questi due sono quelli che mi hanno più svegliato, sono Selfie e Normal. Li metto insieme per vari motivi. Primo perché stavano tutti e due a Berlino, secondo perché sono tutti e due documentari, terzo perché sono tutti e due, secondo me, dei grandi autori, veramente dei grandi autori italiani. Selfie ha avuto anche l'onore di essere selezionato alla nomination all'Oscar europeo. Norman, via delle Tulli, è girato, secondo me il film italiano è girato meglio. È un documentario di una persona che non ha mai fatto film di ficzione, ma luci, movimento, montaggio, nonostante parli per l'appunto fondamentalmente dei pregiudizi di genere, ma senza rabbia, senza scandalo, quasi come se fosse l'occhio di un alieno che si trovasse improvvisamente nel mondo e scorgesse le forme assurde di pregiudizi che i due sessi si scambiano vicendevolmente, soprattutto a danno di quello, diciamo, che subisce da parte del potere una pressione maggiore. Questi sono due film di due autori, secondo me, che io, ecco, come critico, ma anche come spettatore, seguo davvero con interesse. Adesso, anche Agostino è in pista da parecchio tempo di Adele Turchi, però entrambi, secondo me, sono due autori di cui sono avido, sono curioso di capire che film faranno successivamente. È una cosa che una volta succedeva con i registi italiani, di qualche decennio fa, adesso a mercati veramente, ma questi due sono due registi di cui sono molto curioso, di cui ho una grande ammirazione, il cui talento brillante, ecco, vedo, quando esco dai loro film esco riempito di qualcosa che non avevo prima. Bene, bene. Mario, è sempre un piacere e a questo punto un abbraccio, auguri, in bocca al lupo e ci risentiremo sicuramente nel corso dell'anno. Molto volentieri, grazie a te Federico dell'attenzione di questa bella iniziativa che tu coltivi ormai con una tribù, con un esercito di cinefili sempre più, diciamo così, autorevole e sempre più, sono bello di questo referendum, se ne parla sempre di più nel corso del tempo. Naturalmente cercherò di, sarò curiosissimo di capire quali sono i cinque che poi avranno totalizzato il maggior numero di segnalazioni. Certo. Un abbraccio Mario. A te, a Ciao. presto.